Il Sole 24 Ore pubblica il 19 febbraio, nell'inserto domenicale, addirittura un manifesto della cultura, in cui in soldoni chiede all'industria di investire nella cultura. Questo mi ha molto colpito, primo perché è proprio in un momento di crisi che l'industria si accorge che la cultura può essere un investimento. Secondo perché a volte usare le stesse parole non significa affatto indicare o alludere allo stesso significato. Quel margine di ambiguità, anche in frasi che sembrano così lapidarie e così precise, o in parole che sembrano così chiare come cultura, in realtà nascondono più pensieri e più visioni, più interpretazioni, perché in realtà nascondono più contesti. Ed è ragionando su questi contesti che mi sono resa conto che non solo quel manifesto non mi convince, ma che non mi convince neanche alla fine questa presa di posizione rispetto alla cultura intesa come un investimento. Io credo che la cosa alla quale dobbiamo stare attenti tutti è proprio quella di non farci sottrarre un'economia del desiderio. In un'economia del desiderio, la persona è un investimento per se stessa, perché farà di tutto per crescere e migliorare. Migliorare non significa raggiungere un modello di perfezione o adeguarsi a uno stereotipo. Migliorare significa diventare sempre di più se stessa. E per fare questo cammino e questo percorso, deve imparare a conoscere le condizioni che possono permettere questa crescita. E quindi ha in questo senso diritto di avere tutti gli strumenti disponibili per migliorare la sua condizione, per elaborare e creare uno sviluppo. Perché sarà solo la sua crescita che apporterà un miglioramento complessivo alla società, perché costruirà relazioni qualitativamente migliori, perché avrà sempre le parole più adatte per dirsi quella che chiamiamo padronanza espressiva, capacità di comunicazione, che non è sedurre e convincere un altro delle proprie opinioni, ma è anzi il contrario, sapere accogliere, perché nessuna parola altrui diventa una minaccia o un'invasione quando si è certi di poter esprimere correttamente il proprio pensiero e le proprie emozioni. La padronanza è forse l'unica chiave di accesso alla cultura. La padronanza degli strumenti diventa la padronanza di se stessi. E la cultura è un concetto che non può essere né scritto con la C maiuscola né declinato al singolare. Noi abbiamo a che fare con le culture, perché è una visione plurale quella che dobbiamo avere nei confronti del mondo. Non solo perché i linguaggi e i pensieri sul mondo sono tanti e diversi, ma anche gli strumenti che abbiamo costruito per indagare il mondo sono tanti e diversi. Sono discorsi scientifici, sono discorsi letterari, sono discorsi tecnici. Quel mondo, di saperi che non si assommano per diventare poi il sapere con la S maiuscola o la cultura con la C maiuscola. Dobbiamo stare attenti a tutte le definizioni che cercano di porre un universale, perché l'universale si pone come neutro, mentre il rispetto delle diversità e delle singolarità non declinerà mai il genere neutro, ma anzi riconoscerà le differenze di genere tra uomo e donna, le differenze di cultura, di religione, di età. E ho paura, una reale paura, che in un momento di crisi dell'economia capitalista, in cui un'economia fondata sul profitto in realtà non riesce neanche più a replicare se stessa, cerca di, come dire, depredare un altro territorio, il quale territorio soffre da sempre di mancanza di politica, quindi di strategie di sostegno e di visioni complessive da parte di stati, governi e paesi. È sempre la sorella minore, la sorella bistrattata, la Cenerentola della situazione. E fare di questa Cenerentola una destinata a diventare una principessa forse non è la strada migliore. Alla cultura, alla politica culturale non manca il profitto, manca una visionarietà che si fondi e pratichi l'economia del desiderio. E quindi è molto diversa questa logica dal guadagno e dal profitto. La domanda vera è: cosa ti serve? Cosa ti serve per crescere? Cosa ti serve per vivere? Cosa ti serve per capire? Cosa ti serve per incontrare l'altro? In questo servire non c'è in realtà una preordinata visione di scambio. Io ti do quello che ti serve e in cambio tu ottieni quello che vuoi, che è un po' invece la logica con cui una politica industriale potrebbe fare un investimento sulla cultura. Ti do quello che ti serve, ma in cambio ottengo in realtà quello che serve a me, che è il denaro, che è il potere, che è la moltiplicazione, che è la replica infinita di un'immagine. La cultura sta lì per scardinare tutto questo anche, è un discorso critico, e se perde questa sua capacità critica, quindi di incrinare, di giudicare, perde tutto. Non può legarsi al dio denaro come valore, perché è un valore in se stessa. Non può diventare merce, perché è un bene comune. Non può diventare, appunto, aria privata, è aria pubblica. Per citare le parole di una splendida poesia di Patrizia Cavalli: alla cultura non manca l'industria, manca una politica culturale. E quando parlo di politica, parlo di visione per una comunità, visione per una polis, per una città. Se ci impadroniamo in prima persona del valore della cultura, siamo non servitori, ma pratichiamo l'economia del servire.